senso, intanto vai tu, cioè non lo so, sì. Vai avanti tu che a me viene da ridere. No. Perché il presentatore titolare è quindi sono tolto la tuta e sono qua il presentatore. No, benvenuti intanto qui alla tuta sociale completa della Libreria Calusca. Con piacere presentiamo uno degli ultimi lavori. Daniela era rimasta alla Calusca quando era in Porta Ticinese, 20 anni fa. Più di 20 anni fa. Più di 20 anni fa. Scusate. La Calusca è qui dal 2002. Qualcuno mi corregga, ma dice sì. Qua dal 2002. Primo. Lei si ricordava di Primo Moroni? No, prima ancora, no? Perché la Calusca è entrata 92. 92. Sì, perché prima che morisse Primo. Sì, certo, l'ha portato a lui. L'ha portato allora 30 anni quasi. Io in mente 2002 l'archivio. Ok. Quindi vabbè. Perché lei diceva che fa la libreria, ha chiuso un periodo o si è spostata qua e non ha mai chiuso. Cioè si è spostata qui. Quindi non ha mai chiuso. Bene. No, si è spostata dall'edicolo Calusca, si è spostata in Porta Ticinese, lungo Corso Ticinese. A sto punto, dato che l'abbiamo il microfono, vuoi usare tu, non lo so. Ha senso. Se ci sentite il microfono. Vai. Ci sentono, Dio santo. Poi tu c'è la bella, io tanto finisco subito. Sì, no, nel senso voce tonante. Siamo Angelo e ci conosciamo da tanti anni, da quando... Venivi a darmi credito, mi hanno dato credito. Hanno fatto pubblicare un articolo sul Folk Bulletin del 2006, quando io non ero più che nessuno, o non sono un po' più di nessuno. No. Quindi, diciamo che noi l'abbiamo conosciuto, dico noi, uso plurale maestatio, perché di Cristiana teniamo questo sito che si chiama Il Cantastorie Online, e pubblichiamo tutto quello che riguarda un po' il mondo di Cantastoria. L'abbiamo conosciuto come cantastoria, però nel frattempo lui è diventato di più e diverso, nel senso che ha cominciato... Rapinatore cattolico, cattolico rapinatore. Ha cominciato a scrivere libri, ha scritto tanti di libri, prima pubblicandoli con piccole case editrici, poi ha creato la sua casa editrice Malanotte, che sì. Pubblica i libri, e diciamo, quindi è diventato narratore, attore, e è rimasto anche cantastoria, infatti la chitarra che c'è lì. La radice. Poi qualche anno fa in Piazza Frattini c'è la banca Intesa San Paolo. Ho fatto dei bonifici perché stampavo i libri, l'impiegata è una bella ragazza. Mi ha detto, ma tu che fai? Ho detto, ma faccio uno spettacolo a Castano Primo. E dice, stampo i libri, dice, ma fai tutto, dici tu. E io ho detto, per non fare rapina in banca cerco di organizzarli. E lei mi ha detto sì, perché già noi abbiamo dato nel 64 il bandito Cavallero, sempre in quella banca che allora si chiamava Ambrosiano Veneto. Eravamo in linea. Adesso quando passa da Milano viene qui e presenta. Negli ultimi anni è stato difficile. Facciamo i conti, dal 2017 avevamo fatto sopra qui, sopra dove c'era il 8 marzo 2018, è vero. Abbiamo fatto una presentazione di ben tre libri allora erano. E c'era quello su Milano, su Lago Trasimeno e quello argentino. Sì, l'ho presentato, ricordare Milano, ma c'erano questi che... Oggi torna da noi con due libri, uno in particolare, quello di questa sera, che non è più un viaggio nel senso fisico, ma un viaggio nella memoria, un viaggio nei ricordi. Attilio Del Vinco, pescatore poeta scapocciato del Lago Trasimeno, ha detto che è il mio primo libro serio. Non fosse altro perché ha richiesto 15 anni di ricerche e di documentazione storica. No. Tempo di presentare questo, ne c'è scritto un altro. Un epilessino. In un mondo sospeso. Io so che questo libro appunto narra, passa attraverso i tuoi ricordi di famiglia, ma se poi si allarga di tuo nonno, e poi si allarga alla Sicilia e al mondo. Quindi, I ricordi di famiglia poco perché nessuno sapeva niente di questo povero uomo, tale Angelo Di Gregorio, che è nato nel 1902 a Pietrapezzia, la landa diciamo, sprofondata nel centro Sicilia, e anche c'è il castello un po' rialzato, e c'è una via nel paese che chiama via Angelo Di Gregorio, che tra l'altro dove abita attualmente mia zia, sua figlia. No, mia zia abita in via Aldo Moro, che incrocia via Angelo Di Gregorio. Però lui, nessuno mi ha saputo dire nulla, perché diceva, ma era un uomo socialista, bravo, di chi all'antica, qualcuno disse vestito di povertà. Faceva dare sigarette dai più giovani, era un disonore. E poi però diceva nei comizi e anche nei discorsi che faceva durante le riunioni, che era dirigente sportivo della squadra di calcio. E allora a un certo punto dice che diceva, compagni agitatevi ma con calma. Questo titolo mi sta facendo stravendere questo libro, non l'avrei mai detto. Dovunque vado lo comprano molti per il titolo. E no, a parte questo titolo, sì, agitatevi con calma, lo diceva, e tutti ancora si ricordano di questo elemento. Cioè gente di una certa età. Io ho detto, ma... come faccio a scoprire? Visto che hai preso il via, io mi siedo. Vai, ti ascolto. Se vuoi dire qualcosa tu, Roberto. Dopo. Allora, come faccio a scoprire che ha fatto quest'uomo, che comunque agitatevi con calma è un po' poco come spunto di una vita. Documenti non ce n'erano. I parenti, i figli, i nipoti, sì, dicevano due parole, era bravo, era vice sindaco. Allora mi sono messo a fare una ricerca e piano piano, un po' con la ricerca, un po' con, con l'immaginazione, d'altronde, come si chiama quello che ha scritto Madame Bovary? Flaubert. Diceva che l'immaginazione è la più alta forma di conoscenza. Ci credo, ci credo. Allora fate un applauso a Flaubert. Nel qualcuno quando lo prendete in mano c'è una dedica all'inizio, c'è c'è una strofa di una canzone di Bobo Rondelli, che alzate la mano chi lo conosce, tanti, ecco, siamo in un luogo un po' più di qualità, perché di solito quando mi chiedono che tipo di canzoni fai, questa domanda mi fanno, che tipo di musica fai, io dico, come disse Sebastiano Pieroni, che voi non conoscete, un po' Matteo Salvatore, un po' Bobo Rondelli, e qui conoscete anche Matteo Salvatore. In tanti posti del mondo mi dico, co cazzo sono? Allora dico un po' di Andrea, un po' Rino Gaetano, per rendere idea. A quello inglese che mi ha chiesto, io ho dovuto dire Bob Dylan, perché... È proprio base. Eh no, perché sennò che non mi diceva, se gli dicevo, che so, uno minore, dice, co cazzo è, allora andiamo direttamente a Bob Dylan. No, e allora c'è la strofa che dice, ma dentro il cuore un angelo, all'anima di un ultimo, dannati essere uomini con l'angelo dentro, dalla canzone L'angelo di Bobo Rondelli. Era perfetto. E l'altra dedica ve la canto. È una strofa di una canzone che si chiama Lamento della morte di Turiggio Carnevale di Ignazio Buttitta. Fa così. Una strofa messa in breve. Lo socialismo con la sua parola gli sa d'interra l'uomo nella chiana e dice che la carne non gli è sola e manco gli è farina casescana, pane per tutti, travaglio per tutti, tu mangi pane solo se lo so descotti. Angelo era e non aviali, era santo e miracoli facia, cielo acchianava senza corti e scali e senza pedamento né scimmia. Grazie Ignazio Buttitta. No, sarebbe molto più lunga, io la cantavo tutta nelle piazze della Sicilia e anche altrove, quando ho iniziato come cantastorie. E questa... La strofa che avete sentito c'ha una frase che è pane per tutti, travaglio per tutti, tu mangi pane solo se lo so dei scutti. Adesso poi tornerà questa cosa e poi appuntatevela. Il libro inizia con un dialogo tra Angelo e Saro. Angelo, siamo nel 1928, Angelo e Saro, Saro è un compaesano di Angelo, Angelo e Sara leggono le parole del documento appoggiato sul tavolo attorno al quale sono seduti. Sono seduti su un divano e il tavolo di legno ha la superficie di vetro. C'è altra gente in casa. L'arredamento della casa è dignitoso. Se fossero a casa di Angelo sarebbe più sobrio. In casa di Sara ancora di più. Ma questa è la casa di Rocco La Monica, commerciante e componente di una grande famiglia. Alcuni sono medici, altri commercianti. Alcuni liberali di destra, quindi fascisti, altri liberali e filosocialisti come Rocco. Non che Angelo non abbia una casa e una famiglia dignitose, anzi, suo padre è commerciante e anche alcuni dei suoi fratelli gestiscono negozi di tessuti. Però Rocco La Monica possiede una radio e vanno a casa sua per ascoltare alcune frequenze clandestine. Angelo e Saro sono entrambi socialisti, anche se Saro tende più verso l'area e il pensiero anarchico. E in questo periodo non è facile dirsi socialista e men che meno anarchico senza rischiare la garela o le mazzate degli squadristi. Angelo indica col dito la pagina e il titolo del documento: il sesto convegno del Partito Socialista Italiano del 1901. Poi dice, guardando Saro e altri due seduti attorno al tavolo: hanno passato un po' di anni, che ora siamo nel 1928, ma è importante sapere cosa dicevano in quel tempo, quando ancora si poteva dire forte e chiaro sono socialista, senza doversi nascondere come facciamo adesso. Saro lo guarda e pensa che di lì a poco si confronteranno aspramente, anche se amichevolmente. Ha capito dove Angelo vuole andare a parare. Angelo comincia a leggere: il diffondersi assai rapido del socialismo, la sua apparizione come partito parlamentare, l'assorbimento da parte sua di molto di ciò che vi ha di meglio nella vita e nel pensiero nazionale, costituiscono il fatto principale dell'odierna politica italiana. Un movimento che 10 anni fa, scrivono nel 1901, che 10 anni fa esisteva appena, ora è nella sua maggiore forza di vita. E il suo entusiasmo, la sua abilità e capacità di adattamento provano come il genio politico sia ancora possente in Italia. Angelo posa il foglio di carta sul tavolo e si toglie gli occhiali. Guarda Saro con un'espressione un po' paterna. Infatti Saro è più giovane di lui, circa 10 anni. È nato nel 1912, Saro, mentre Angelo nel 1902. Ha visto che c'è scritto qua? Lo socialismo ha riuscito a portare il genio politico possente in Italia. Sì, lo abbiamo capito, però secondo me se seguivamo l'esempio degli anarchici, di Bakunin e Malatesta. Ma quale Bakunin e Malatesta? Lo interrompe Angelo un po' bruscamente. Malatesta... Vedi che lo dicono un nome stesso, che suave una mala testa. E a queste parole sorridono quelli che stanno intorno al tavolo. Anche Saro sorride di un sorriso amaro, quasi involontario. E Angelo ne approfitta per rincarare la dose. Che se rimaneva Mazziniano malatesta, come quando era Caruso, forse sarebbe stato meglio così, riferendosi al fatto che Malatesta, da giovane, aveva abbracciato gli ideali repubblicani di Mazzini. Allora Saro, sentendosi ulteriormente provocato, dice: tale la sa perdere che gli anarchici fecero spaventare i ricchi possidenti. Infatti Crispi nel 1894, dopo i fasci dei lavoratori siciliani, fece approvare le leggi anti-anarchici. Ma sì, Sari, va bene. A parte che quelle leggi le fece approvare dopo un mese dall'attentato dell'anarchico Paolo Lega, che sparò a Crispi e non lo colpì. Ma anche quando fecero l'insurrezione nel Matese, vicino a Benevento, 10 o 20 anni prima, ma la testa con Cafiero e gli altri 4, dice ironico Angelo. No, Angeli, veramente non erano 4. E vabbè, gli erano 5, va. No, e come è finito? E come andò a finire? Lo sappiamo come è finito. Yeah, sì, ma nell'amma ricordare che invece che partire dai contadini, l'insurrezione, dopo che arrestarono quei 4 o 5 anarchici, i contadini non le seguirono agli anarchici. E poi, Sarì, neanche Andrea Costa partecipò a quell'insurrezione del Matese, che lui preferì andare in Belgio per partecipare all'internazionale anarchica a Vivere. Vervier, si dice Vervier. Ma sì, sì, andiamo capuso. Sì, però... dobbiamo dire che ci fu anche l'infamata di quel traditore che fece lo spione con gli sbirri in cambio di 4 denari, ci tiene a precisare Saro. Sì, Saro, però dobbiamo dire anche grazie a Pesacane, anzi a sua figlia Silvia, che lavorava come domestica per uno dei giudici, come diceva qualcuno, e per miracolo non le fucilarono. E il processo, invece di farlo il tribunale di guerra, lo hanno fatto il tribunale civile e si sono salvati. Comunque, la propaganda col fatto non può funzionare. Ma io non sogno così sicuro, caro Angelo, perché all'inizio del Partito Socialista c'erano gli anarchici che volevano fare per davvero la rivoluzione, volevano distruggere l'eredità della proprietà. Allora sì che sarebbe riuscita l'insurrezione popolare. E infatti, cosa hanno combinato? Sarei che Cumenaro, fa Angelo accendendosi in volto. Un volto tondeggiante ma che finisce in basso, con un mento anch'esso tondeggiante, quasi sporgente. La sua espressione spesso si accende, sembra a volte duro, arcigno quasi. Ma adesso esprime pietà e rabbia. Pietà per gli amici che sa in carcere, anarchici, socialisti e anche gente innocua. Rabbia per le leggi repressive che il regime sta attuando, che ricordano le repressioni dei tempi di Crispi. Però ci tiene a sottolineare che i tentativi insurrezionali contribuirono a far mettere fuori legge internazionale. Sì, Angeli, Non è che furono gli anarchici la causa, dobbiamo dirla bene la questione. Anche tanti socialisti moderati avevano la loro parte. Se invece di fare delle legalitarie si avessero messo dalla parte degli anarchici a difenderla, a portare avanti la propaganda col fatto. Per esempio, anche nel 1920 e 21, quando l'ardite del popolo resistevano con le armi contro i fascisti, a Parma, a Viterbo e in altre città. Grazie, la prima. Bene. Allora, tenete in mente quello Lupani. Allora, questo. Invece dopo un po' Angelo ovviamente. Ciao, grazie. Grazie, grazie mille. Sono sempre periodi un po' degli anni venti. Le macchine. E allora volemmo scommettere che le macchine rovineranno l'umonno. Angelo dice queste parole dopo che un suo compaesano ha commentato la notizia della Gazzetta dello Sport, cioè che Tazio Nuvolari aveva consigliato e convinto Achille Varzi, il suo rivale di sempre, ad acquistare una Bugatti 35C. E magari Varzi ci partecipa con la Bugatti a Guanno alla Mille Miglia. E un altro aveva aggiunto: ma ci può partecipare anche con un aeroplano Varzi alla Mille Miglia, tanto sempre Nuvolari ce la sta una pruvola alzata. Angelo ne approfitta per dire la sua sulla velocità e sulle automobili. Scommetterei qualunque cosa e vincerei la scommessa. Fra qualche anno mi darete ragione. Le automobili rovineranno il mondo, la vita dei paesi, il paesaggio, in nome della sacra velocità fasulla e ingannevole. Sono seduti attorno al tavolo del caffè di Milano, in piazza Vittorio Emanuele. Angelo beve il suo bicchierino di acqua e menta. Un uomo della sua età, o qualche anno in meno, ha in mano un bicchiere pieno di vino. Un altro più giovane tiene un bicchiere con dentro la gazzosa. Quest'ultimo dice: sì, Angeli, lascia perdere, non la vede la bellezza della velocità tu? L'altro giorno mio cognato ha portato l'automobile del barone. Angelo, quando sente quella parola, barone, gli viene da dentro una cosa, una specie di voglia di vomitare. L'uomo col bicchiere di vino lo capisce e dice all'altro: Menico, non la devi dire quella parola, che a me, soprattutto ad Angelo, ci viene lo schifo a sentire nominare certe parole. Va bene, dice il giovane con la gazzosa, mi dovete scusare, ma era per dire che solo una volta io ho visto un'automobile vera e propria, ed è quella del barone. Angelo sta per colpirlo con una manata, ma poi si trattiene, anche perché il giovane con la gazzosa si sposta, come se sapesse che la manata sarebbe partita. Comunque, a me le macchine mi sembrano importanti, che sempre con le scecche e le mole che cacano nelle case e nelle stalle, mi pare che non potremmo ir avanti. Miglio una macchina, pulita e liante. Vedi sto figlio dell'Annunzio di Minchia, che minchiate cava di cigno, dice Angelo sprezzante. Minchia, davvero, cosa le farete chiamare figlio dell'Annunzio, sì? E anche figlio di Marinetti, dando un rincoglionito futurista, fascista e... dice Angelo, poi si guarda intorno e abbassa la voce. Che vorrei dirgli le quattro e urlare a pieni polmoni, continua a dire abbassando la voce. Poi si rivolge al ragazzo e dice: non lo vedi che Mussolini e Finzi sono orgogliosi di essere piloti, apostoli della velocità, dicono. E che c'è di male nella velocità? Chiede il ragazzo con la gazzosa, provocando ingenuamente. La velocità è come la violenza, perché non la puoi controllare, o se la puoi controllare fai difficoltà a evitare i danni che può fare. E se ci mette la macchina prodotta da un'industria, le persone guidano la macchina, si sentono padroni della strada, del mondo, è una forma di dominio, una forma di fascismo. Infatti i fascisti vanno orgogliosi di questo, posteggiano i loro bolidi davanti alle osterie, vanno contro le greggi come ha fatto quel criminale di Finzi in Emilia Romagna poco tempo fa. Questa forma di occupazione dello spazio pubblico, che prima era della gente, dei cantastorie, è una forma di fascismo, anzi, peggio. Quella sera Angelo, dopo quel discorso al bar, va a cercare un vecchio giornale, o meglio, una pagina di un giornale di tanti anni prima. Lo aveva trovato prima, tempo prima, alla sezione del partito, qualcuno lo aveva attaccato alla porta d'ingresso della sezione. Il giornale del popolo di Genova, c'è scritto nella parte alta della pagina, e anche la data, 2 agosto 1857. C'è il testamento politico di Carlo Pisacane, quello che Pisacane aveva consegnato a G.V. Mario prima di imbarcarsi per la spedizione di Sapri. Angelo era riuscito a salvare quel foglio dalla distruzione della sezione avvenuta pochi giorni dopo, il 28 ottobre del 22. Allora era giovane, ma già entusiasta, già militante, o come dicevano i vecchi socialisti, era già apostolo. Lo rilegge, anche se il foglio era gualcito e strappato, e quando arriva a un certo punto comincia a commuoversi. Immagina la rabbia, la forza e la volontà di rinnovamento con cui Pisacane aveva scritto e declamato quelle parole. Io credo al socialismo, ma a un socialismo diverso dai sistemi francesi, tutti più o meno fondati sull'idea monarchica e dispotica che prevale nella nazione. Esso è l'avvenire inevitabile e prossimo dell'Italia e forse anche dell'Europa intera. Il socialismo di cui parlo può definirsi in queste due parole: libertà e associazione. Angelo si commuove. Poi, seduto sul letto, tenendo il foglio, il giornale sulle gambe, si passa una mano sugli occhi per asciugare un'incipiente lacrima. Lacrima sorta quando inizia a leggere il passo che più lo aveva commosso fin dalla prima volta. Io sono convinto che le strade di ferro, i telegrafi elettrici, le macchine, i miglioramenti dell'industria, tutto ciò finalmente che sviluppa e facilita il commercio, è da una legge fatale destinato a impoverire le masse fino a che il riporto dei benefici sia fatto dalla concorrenza. Tutti quei mezzi aumentano i prodotti, ma li accumulano in un piccolo numero di mani, dal che deriva che il tanto vantato progresso termina per non essere altro che decadenza. Grazie. Questo lo scriveva Pizzacane nel 1850, quindi molto prima di Sergio Latouche e di Ivan Illich. E la ricerca che ho fatto mi ha aiutato a capire anche questo, che nel 1857. Quindi la coscienza di un certo livello di analisi è molto più antica, poi è stata perduta, rimossa, schiacciata, eliminata. Ora, a un certo punto, poi c'è la figura di Pertini che subentra nell'amicizia, nello scambio di lettere con Angelo, è verosimile perché mi hanno detto che mio nonno ha portato Pertini a Enna o a Pietra Persia direttamente. Ho fatto le ricerche un po' di verosimile. Le ricerche che hai fatto, come le hai fatte? Perché non c'erano documenti, non c'erano... Ora poi lo dico. È un mistero. A un certo punto... C'è una figura nel libro, nel romanzo, che è lo zio Francesco, che è un mentore, una guida spirituale politica di Angelo, che è un amico di famiglia. Per esempio, quando Angelo esce dalla società Margherita, incontra lo zio Francesco e gli fa un po' di domande. Lo zio Francesco lo porta a casa sua e gli fa vedere un giornale siciliano che si chiama L'Avanguardia Rivoluzionaria. Gli spiega lo zio Francesco delle divergenze tra i sindacalisti rivoluzionari, degli anarchici individualisti. Gli parla di Vito Mercadante e Nicola Alonge, entrambi socialisti. Vito è un socialista e anche poeta, dice lo zio Francesco. Quello che scrive le poesie che pubblicano sul Corriere dei Piccoli? Chiede Angelo intuitivo. Sì, ma anche poesie che parlano di operai, socialisti, lavoratori, dice lo zio Francesco. E poi tira fuori da una scatola di un giornale di qualche anno prima, o meglio una pagina di un giornale, L'Avanguardia Sindacalista del 1911. Vedi questa poesia, dice lo zio Francesco indicando un testo che si trova in basso a destra della pagina, l'ha scritta Nicola Longi, che è di Prizio, un paese che si trova nelle montagne. Un paese come Castro Giovanni, chiede Angelo, che è l'antico nome di Enna, Castro Giovanni, sempre più partecipe e pronto a fare i collegamenti giusti. Sì, come Castro Giovanni, perché anche Castro Giovanni si trova in altro, come fosse un castello sopra una montagna. Infatti si chiama Castroianni, Castrianni nella parlata nostra, e Castro vuol dire castello nella lingua latina antica. Ecco, Prizio è un po' come Enna, ma è più in là, più da via, verso Catania e Messina. Ecco, Nicola Longi, anche lui è socialista, un contadino, e ha scritto anche lui una poesia, e questa è. E dopo aver detto queste parole comincia a leggere la poesia, partendo dal titolo. Però prima di leggere la dice ad Angelo... Però non lo devi dire a tua madre che ti ho letto questa poesia, che quella è parrenare e poi si arrabbia e non ti ci manda più a casa mia o non mi fa entrare più a casa tua. Il titolo della poesia è Il credo del lavoratore. E poi le parole dello zio Francesco, la sua voce un po' rauca ma dolce, dicono: credo in Dio lavoro onnipotente, creatore di tutte le ricchezze che sono sulla terra. Credo che chi non lavora vive di questo unico cibo e del sudore nostro, il quale fu concepito per opera, virtù e ignoranza del lavoratore. Nacque dall'ingiustizia, patì e patisce ancora sotto tutti i governi, che sempre il lavoratore hanno scorticato e fatto morire dalla fame. Qua da venire a giudicare che chi non lavora non mangia. E credo alla santa organizzazione dei lavoratori, la Lega di Resistenza, lo sciopero e il boicottaggio come base della lotta di classe. La comunione dei beni, la buona vita in terra, e così è la verità. I socialisti, Carangioletto, sono tutti scrittori, giornalisti, poeti, anche cantastori. Vedi Filippo Turati, per esempio, che ha scritto l'inno dei lavoratori con la musica di Luna Bucco, però le parole ce le ha messe lui. Angelo comincia a pensare che anche lui vuole imparare a cantare, a scrivere poesie e canzoni, o comunque a parlare in pubblico, a raccontare, chissà se un giorno ci riuscirà. Intanto per il momento si fa incantare dai cantastori e dalle chitarre che vede ogni tanto fra le mani di chi le suona. Una sera di quelle, insieme allo zio Francesco, vanno in una taverna. E mentre lui beve un bicchiere di gazzosa, vede a un tavolo quattro persone, di cui uno tiene in mano la chitarra e canta. Si avvicina e sente le parole: ad Ancona contro l'Urre, l'anarchici e le mazziniane furono ammazzati come le cani. E questo conclude un capitolo che inizia con la settimana rossa di Ancona, attraverso le varie, diciamo, questi testimonianze. Lo zio Francesco gli dice ad Angelo che nei prossimi giorni lui andrà con la mula a trovare il fratello che lavora nel feudo dei Nicoletti, gli propone di andare con lui, e qua c'è verso la lotta il capitolo del viaggio un po' iniziatico di Angelo, che ha 11 anni, con suo zio Francesco, con la mula, alle 5 di mattina partono per andare verso il feudo, ci metteranno 2-3 ore di cavalli, di mula, di jumenta, e a un certo punto lui vede in questa strada alcuni cavalcano muli e asini, da soli o in due sulla groppa, molti camminano a piedi, ce ne sono che si aggrappano a qualche carretto che passa. Molti vanno a lavorare nei feudi, i carrettieri portano giarre, pentole di rame e altri utensili che vanno a vendere in qualche mercato di un paese vicino. Alcuni carrettieri intonano un canto d'amore cantato spesso da chi fa quel lavoro, perché parte da un invito al mulo di tirare e poi si amplia a un richiamo all'amata. Si incrocia l'invito al mulo con l'invocazione all'amata, amore e pitti accanto, la cadenza è lenta, quasi a seguire il ritmo del passo del mulo, e va così. Tira muleggio, tira e cammina, l'aria fresca e dolce di la chiana, lo scroscio della rota e la catena, ti canto una canzone paesana. Quindi con questo cavallo, cioè con la jumenta, a un certo punto c'è un viaggio abbastanza articolato, mentre cammino con la mula vedono tra le altre cose, si ferma, lo zio Francesco si ferma e comincia a indicare un punto non molto lontano, sufficientemente vicino per vedere una fila di muli, scecche e jumente cavalcati da uomini più o meno giovani. Sono a una distanza tale che si possono scorgere le figure, non riconoscere le persone, ma almeno la giovinezza di chi cavalca. Viene quel corteo di muli e di jumente verso di loro e man mano si avvicinano, percorrendo una trazzera che si inerpica sulla sinistra rispetto alla strada principale che stanno percorrendo. Man mano che lo zio Angelo e Francesco e Angelo avanzano, vedono che il corteo non si muove più di tanto, quasi che fossero lì per aspettare altri, una specie di appuntamento o ritrovo. A un certo punto loro stanno aspettando Alfonso Canzio, che è un socialista di Barra Franca che arriva per occupare una terra incolta, siamo nel 1914 così, e allora a un certo punto lui vede in questa figura che ha... Allora Picciutti, dice, comincia a dire Canzio, abbiamo poco tempo e quindi organizziamone per bene. Spiega che avrebbero occupato un pezzo di terra del feudo e che per occuparla dovevano cominciare subito a zappare e a dissodare. La terra si trova a pochi minuti di cavallo da lì. Spiega che dovranno difendersi dai gabelloti e dalle guardie campestri, ma senza passare subito all'attacco, dice. Loro ci provocheranno, ma noi non risponderemo alle loro provocazioni, non dobbiamo indietreggiare mai. Poi, per incoraggiare gli altri braccianti, dice che arriveranno altri fratelli senza terra da reman forte, forse tra una mezz'orata, però noi andiamo avanti, quelli che siamo adesso, così ci portiamo avanti e prepariamo il terreno a quelli che arriveranno dopo. Poi fece un breve discorso in cui ricorda che i fascianti del 93 avevano fatto tutto quello che avevano fatto perché gli urnatari, i minatori, gli artigiani e i gessai si erano organizzati insieme. E così dobbiamo fare noi, dobbiamo fare come una lega di lavoratori. Lui, fondatore della Lega di Miglioramento dei braccianti di Barra Franca. A un certo punto dice, hanno ammazzato negli ultimi anni i compagni Panepinto a Santo Stefano e minacciano e provano a fermare Bernardino Verro a Corleone, e noi con il sangue versato dei nostri compagni dobbiamo costruire un legame forte tra di noi per riconquistare la terra che ci hanno rubato i baroni e i gabellotti, i loro complici. Applausi, cose, osanna. E a un certo punto sto Angelo rimane impressionato, dice, questo, dice, per lui, dice, voglio fare come lui. A un certo punto dice, quando sarà grande. Si fermano in fondaco per mangiare un tozzo di pane con un po' di formaggio, chi ce l'ha. Qualcuno mangia pane duro e nero di tanti giorni prima, una o due olive e una cipolla. Pochi bevono un po' di vino e molti altri ancora acqua da un piccolo contenitore simile a un'anfora che in Sicilia si chiama bumbul. Angelo siede accanto a un ragazzo più o meno della sua età. e incontra Turiduzzu, un ragazzo che sta andando a lavorare alla miniera di Musalà. Lui non aveva mai avuto modo. Turiddu dice che lavora nella miniera da 3 mesi e che parte la mattina alle 3 da casa per arrivare alle 5 alla miniera. Gli racconta del suo lavoro. Lo Pecconiri scava con lo peco e io mi porto dietro i pietroni di zolfo sulle spalle, fino al punto dove c'è quello col carrello che trasporta i pietroni dello zolfo fuori dalla perrera. Angelo lo guarda impressionato. Sapeva di suoi coetanei anche più piccoli che lavoravano nella miniera, ma è la prima volta che ne vedo uno e ci parla e lo guarda negli occhi scuri e fondi, forti e dignitosi, anche se fa una vita nascosta sottoterra e si sveglia di notte e torna a casa la sera. Turiddu infatti gli dice che finisce di lavorare alle 6 di pomeriggio e arriva a casa non prima delle 7 quando trova qualcuno che l'accompagna a quello carretto. Si trova un carrettiere di buona volontà che ritorna dallo travaglio. Poi Turiddu dice che suo padre e sua madre sono contenti del suo lavoro, visto che con la terra si travaglia assai e non sai mai quanto guadagni, dipende dall'annata. E poi il padrone ti dona quel poco che basta a stento per campare. Almeno alla perrera lo travaglio c'è sempre e mi donano lo stipendio. Alla domanda Angelo sull'entità dello stipendio, Turiddu dice che prende pochi centesimi allo giorno, ma sogno come un cucchiaio libero di tanti anni accattati. Cioè, che vuol dire accattati? Cioè, Turiddu dice che tanti suoi compagni di lavoro, anche più piccoli di lui, sono stati comprati dal picconiere, che ha dato 100 o 200 lire ai genitori per il caruso che si è preso con sé, a lui gli dà pochi centesimi di lire, come a mia, ma almeno io posso tornare la sera in casa mia liberamente. Le caruse che allo picconiere si accattano diventano di proprietà del picconiere, della miniera. Angelo non aveva mai realizzato tutto questo. Angelo aveva sentito dire vagamente a Don Totò l'Arrezzato che suo nipote era stato preso dal picconiere, ma non sapeva nei dettagli cosa significasse, e soprattutto non sapeva cosa significasse essere accattato, e realizzava in tutto in quel fondaco in mezzo alla campagna. A un certo punto Angelo dice, vede che Turiddu non ha scarpe, e dice, io sono fortunato perché mio padre, commerciante, un anno prima era andato con suo padre a comprare le uniche scarpe che portava ai piedi, senza esagerare, come diceva suo padre, perché tanto a durare almeno 5 anni, però ce l'aveva. Angelo e tutti i suoi coetanei fortunati potevano comprarsi un paio di scarpe, spesso dovevano camminare a piedi nudi, d'estate quasi sempre, e fino al mese di ottobre, o comunque fino alla fiera del rosario che cadeva ai primi del mese. Ricordava Angelo il giorno che erano usciti di casa con suo padre, che erano andati fino alla punta del piano San Rocco in direzione del castello e si erano fermati alla bancarella di Mastrangelo Lurrisano. Qui quasi tutti voi capite, però tra parentesi scritto che veniva da Riesi, per chi no, giustamente non sa, vuol dire Risano, che vendeva le scarpe canzate. Angelo aveva provato quelle scarpe fatte di cuoio grezzo di bovini a forma di barchette, aveva allacciato i lunghi lacci di pelle, le aveva avvolti fin sotto il ginocchio, e adesso che ci pensava si sentiva fortunato. E avrebbe voluto dare un paio di scarpe anche a quelli come Turiduzzo, o forse era meglio farli riunire per organizzare la lotta e occupare le terre e ottenere migliori condizioni di lavoro nelle miniere, come diceva Alfonso Canzio. Allora pensò, illuminandosi nel volto, voglio diventare come lui, voglio diventare come Canzio, così coraggioso, determinato a lottare per i più umili, per i senza terra. Forse dentro di lui covava il senso di riscatto dovuto alla sua gamba più corta, che lo faceva sentire un po' diverso. Poi troverete dettagli che lui ha saputo da me. Mia mamma dice che aveva la gamba più corta, non so se era poliomielite o comunque un problema, un difetto. E c'è, vabbè, la cosa bella fa un po', che la madre Maria Cipolla, cattolica, gli ha detto una sera, forse lui, la pietra scartata è diventata testata d'angolo, c'era scritto così nel Vangelo che sua madre gli leggeva ogni tanto di sera prima di dormire sotto la luce della lumera, perché il lume a gas lo accendevano per le occasioni importanti e per quando erano in tanti. Qua c'è un aspetto un po' così folclorico, lui guardava il pezzo di stoffa imbevuto di olio che alimentava la lumera, quello stesso olio che era servito a friggere il pane, gli tornava al palato il sapore del pane fritto che sua madre aveva preparato il giorno prima. Pane raffermo, immerso in 2 uova sbattute e poi fritto nell'olio. Ecco, questo Franco Di Blasi, che è stato il primo lettore, diciamo, del libro per fare una valutazione, ha detto che ha apprezzato questo aspetto, diciamo, dell'alimentazione, forse anche di più avrebbe gradito, però non esageriamo con l'alimentazione. No, ci sono 2 elementi che forse voi, io ho dimenticato di questo della lotta. Ma prima ancora, quando dice il credo dei lavoratori, dice chi non lavora non mangia, ricordate? E tu mangi pane solo se lo studi e scotti. Ora, oggi, nel nostro immaginario, ditemi voi, se ora vi dico tu non mangi se non lavori, a chi pensate? Oh, che giocano mai, non già vaglia. Allora, no. Dei bravo. Oppure? Politica è già buono, è già buono. Però il popolino più spesso pensa... No, ma era provocatorio. No, ma me l'hanno già detto, non sei il primo. Oppure l'artista in primis. Io quante volte mi dicevo, venga tu, mangi pane a tradimento, non travagli. I mega ricconi, mangia pane a tradimento. Quello è purtroppo perduto. Spesso dice i barboni, i mendicanti, gli immigrati. Invece, 100 anni fa, quando dicevano tu mangi pane sullo studio ascolti, oppure chi non lavora non mangia, come la poesia di Bottitta a un certo punto c'è. Ah sì, nella vabbè. Era ovvio che si riferivano ai padroni, ai feudatari, ai baroni. Ora si è capovolto al punto che 10 anni fa Silvio Berlusconi con caschetto poteva dire in un manifestone io sono il presidente operaio. Perché ormai non si capisce più la minchia, quindi va bene anche quello. Che Dio si sveglia presto, è operoso, è attivo, quindi è operaio. Invece no, prima c'era una coscienza forse di classe. Questo è stato perduto perché io mi ricordo da bambino, quando ho letto il passo, stai parliando questo? Quando ho letto il passo, la lotta che dice gli vorrei dare un paio di scarpe o forse farli organizzare per lottare insieme, anche questo è una rimozione. Io da bambino, non so voi, sono nato nel 72, dalle parti mie, Sicilia, penso, invece quando ero bambino, 10 anni, facevo un mio amico, un vicino di casa che era un po', diciamo, meno agiato di me, e quindi classificabile come povero, il padre magari lavorava poco, eccetera, comunque sono operai, proletari, ma allora io non sapevo, non avevo questa coscienza, e a un certo punto quando mi chiedevo, ma che avevo bisogno, che ci sogno 100 lire, vai alla Caritas, e si fa. Invece, quando avevo 11 anni, Angelo Di Gregorio, è verosimile, molto probabile, che a 11 anni diceva, già, ci procuro un paio di scarpe, o meglio, forse meglio farle organizzare, perché aveva l'esempio di Alfonso Canzio che spronava a lottare. E ora questo, la lotta, la strada, avete visto tutta la strada che va? Qualche mese fa ho scoperto questo piccolo, diciamo, riconoscerete credo. Si chiama, è una canzone molto lunga questa di Giorgio Gaber, che inizia col parlato molto bella, e io faccio solo il ritornello che si attaglia bene. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada per conoscere chi siamo. No strada da cui tornare. Grazie. Questa l'ho cantata 6 mesi fa in un posto sul lago Trasimeno, in clandestinità, non si poteva fare queste cose in quel periodo a marzo, però noi facevamo in questo camping di un amico, e abbiamo presentato questo libro, sono meravigliose, c'è la magia, la clandestinità, il timore, l'intimità, uno dei effetti collaterali quasi miracolosi di questa storia. E lui è genovese, cioè ha 60 anni, ha fatto la lotta continua, E lui fece notare che nel 75 Gaber scriveva questa canzone, non aveva il senso di oggi, perché oggi la strada è vero, poco vissuta, comunque fai una passeggiata, giochi, fai una cosa e la vivi un po'. Però nel 75 la strada, mi ha fatto notare lui, Maurizio, che Gaber cantava questo, voleva dire nella strada c'era un conflitto aperto, molto diffuso, anche armato. E quindi il contesto in cui la scriveva non era quello di oggi. Bene. chitarra. Gaber, tra l'altro, abitava, io senza saperlo, ho abitato per 20 anni, mi sono laureato all'Università Cattolica, in piazza Tripoli, via Taggiura, mia sorella abita in via Lorenteggio, Gaber credo abitava in via Fiordalisa, quelle parti, anche personalmente cosa, Franco Trincara, non so se è ancora vivo, il cantastorie siciliano, abita in via Lorenteggio. Senza saperlo mi va a velare in un covo di cantastorie e di... Ecco, e a un certo punto il romanzo è molto articolato perché coglie anche la figura di Angelo Di Gregorio come dirigente sportivo, poi diventò assessore, comunque era soprattutto dirigente socialista. E per esempio, a un certo punto c'è nel 1933 ci fu un però a pagina 143 il caso Russell e il fascismo come negazione della malinconia. Salvemini era riuscito a rifugiarsi in Francia. Mussolini, dopo aver saputo che Gino Lucetti, prima di lanciare... Scusate, 1933. Mussolini, prima di lanciare... Dopo aver saputo che Gino Lucetti, prima di lanciare la bomba contro la sua macchina nel 26, era stato ospitato in Francia come fuoriuscito antifascista, pronunciò un discorso in cui diceva con la sua solita prosopopea: bisogna finirla con certe tolleranze colpevoli e inaudite di oltre frontiera. Troppo forte? Vabbè. Se veramente... si tiene all'amicizia del popolo italiano. Amicizia che episodi di questo genere potrebbero fatalmente compromettere. Cioè, lì. Camillo Romano Avezzana, l'ambasciatore italiano in Francia, aveva chiesto al governo francese l'estradizione dei fuoriusciti italiani, ma la Francia si rifiutò, appellandosi al rispetto delle leggi dell'ospitalità. Ciononostante dichiarò che non avrebbe tollerato, ancora oggi, Battisti, se mi stico così, ciononostante si rifiutò che non avrebbe tollerato abusi da parte dei cittadini italiani da rifugiati. Salvemini, dopo l'arresto nel 1925 del giugno, a giugno era stato processato a luglio insieme ad Ernesto Rossi, ma poi amnistiato, quindi clandestinamente si era rifugiato in Francia ad agosto. Nel 32 uscì per un editore francese il libro Mussolini diplomatico, in cui Salvemini aveva raccolto alcune riflessioni di quegli anni di esilio. Le copie del libro però furono rintracciate dalle spie fasciste e distrutte. Qualche copia riuscì a essere salvata clandestinamente e una di queste copie riuscì ad arrivare fra le mani di socialisti siciliani. Angelo riuscì a ricopiare un pezzo del libro e in una serata in cui incontra clandestinamente alcuni amici legge un passo. Noi non possiamo essere imparziali, possiamo essere soltanto intellettualmente onesti, cioè renderci conto delle nostre passioni, tenerci in guardia contro di esse e mettere in guardia i nostri lettori contro i pericoli della nostra parzialità. L'imparzialità è un sogno, la probabilità è un dovere. Allora, per una magia di questi della pandemia, non lo so, a febbraio di quest'anno io avevo pubblicato questo libro che mi è costato un po', qualche libro l'ho comprato, ma molti fortunatamente non potevo comprarli, tipo questo qua o altri citati negli anni 20, 30. Però davanti a casa mia c'è una libreria, anche qui c'è tutto un gioco di falsi cliché, si chiama Mondadori Store, di una coppia di amici che vicini di casa, Federica e Antonio, che purtroppo ve lo devo dire, lì vicino a Perugia e anche vicino a casa mia ci sono almeno una libreria che si spaccia come anarco-libertaria, che chiamiamo anarco-snob, forse l'avete sentito dire 518, edicola 518, mi conoscete Roberto? Può essere? No, meglio no, meglio così, conosci? No, meglio. Poi un'altra libreria indipendente, niente, non li prende i libri degli indipendenti, motivi fiscali, motivi di snobismo, quelle della Mondadori tutti ce l'ha in vetrina. E il bello di questi, come dici, bisogna mettere in discussione tutto prima di rimettere. E allora a un certo punto, ve lo giuro, sono arrivato in una libreria e vedo Mussolini diplomatico a febbraio, avevo già pubblicato questo libro, dico minchia, me l'hai cattato il libro, perché lo cito, è almeno un libro dell'epoca, lo devo comprare. La Donzelli, non si sa perché, fa sti prezzi di lusso, bozze di 30 euro, però dice, questo lo devo comprare. Non lo so, ve lo giuro, è successo questo, a febbraio, era fine febbraio, davanti alla chiesa di Sant'Ercolano, alle 10 di sera, mezzo lockdown, poca gente in giro, sarà anche questa la magia, 25 euro, der, la carta di vendita, la carta di cena. non che mi mancassero, però sono perfetto, ecco, tu l'hai preso. No, e quella è una cosa bella. E tra l'altro, beh, ora a un certo punto di questo, dopo aver detto queste parole, qualcuno fa notare che Salvemini aveva scritto altri libri prima di quello, ma solo quello era stato distrutto. Forse per cui, da quando nel 1929 ha fondato con i fratelli Rosselli Giustizia e Libertà, il Duce non può sopportare tali e tante sfide e sfregge al suo onore. Allora ha pensato di punirlo ancora più esemplarmente, distruggendo i suoi libri, dice Angelo alzando gli occhiali sulla fronte e alzando il capo dal foglio. Certo che Ernesto Rossi e Ferruccio Parri le hanno arrestate in quanto aderenti a Giustizia e Libertà. A Salvemini non hanno potuto arrestare perché se la fece franca in Francia, e quindi per ripecca i fascisti hanno distrutto il libro, dice Filippo Anzallo. D'altronde Ernesto Rossi deve essere contento di essere arrestato per una causa comune con il suo maestro Salvemini, col quale già era stato processato nel giugno del 25, prima dell'amnistia, riprende a dire Angelo. Veramente per Rossi, oltre che per un maestro, e l'ho detto lui stesso, Salvemini è stato anche un suo salvatore. Tra virgolette, nel 22, quando Ernesto collaborava con il Popolo d'Italia di Mussolini, e Salvemini con i suoi discorsi l'avversà e lo riportà alla retta via, dice Salvatore Palazza. E perché da socialista si mise a collaborare con quel traditore di Benito? Chiede Filippo Anzallo, un po' provocatorio. E perché, inizia a dire Angelo, non avrebbe voluto rispondere, spolverare quel discorso, ma ormai che l'hanno tirato fuori è meglio ammettere e riconoscere quello che era successo, ed è meglio che lo dica lui senza accenti di accusa o risentimento, anziché altri tra i presenti e qualcuno che avrebbe potuto dirlo, di quelli più anarchici e lì in mezzo a loro. E perché Ernestino rimase deluso dal disprezzo di molti socialisti nei confronti dei reduci di guerra tornati dal fronte. E effettivamente un po' devo riconoscere che non solo lui rimase deluso, tanti altri si buttarono fra le braccia di Mussolini, che aveva difeso e accarezzato i reduci e gli arditi. Poi, oltre a questo, Ernestino era deluso e disprezzava la classe politica tutta, incapace di slanci ideali, e quindi vide in Mussolini uno slancio nuovo. Ma meno male che poi incontra Salvemini, che lo fece tornare alla lucidità. Qualcuno ride a queste parole pronunciate dallo zio Francesco, più per il tono della voce canzonatorio che per le parole in sé. Ecco, è buono ridere e far ridere in questo periodo, dice Filippo Anzallo. Certo che è bello ridere, anche se ci sarebbe da piangere più che da ridere, ribatte lo zio Francesco. E no, piangere è proibito, dice Angelo con tono scherzoso. Ti riferisci forse ai provvedimenti, o meglio ai consigli del Truce e dei suoi sgherri, che non vogliono che gli italiani siano tristi e quasi quasi sarebbe vietato manifestare scontentezza in pubblico e in privato? Chiede Filippo. Questa è una cosa storica, molto scoperto. Eh sì, proprio a questo mi riferisco, conferma Angelo. Mi riferisco alle parole del professore Possetto, il segretario del fascio locale, il quale giorni fa ha proclamato che non c'è motivo di essere tristi sotto le ali protettive del Duce, che non vuole vedere nessuno lamentarsi né mostrarsi triste in pubblico né in privato. Filippo Anzallo allora tira fuori dalla tasca un articolo di un giornale dove c'è pubblicata la notizia del suicidio dello scrittore francese Roussel, che pochi giorni prima è stato trovato esanime all'Hotel de Palme a Palermo. E allora queste notizie disturbano la felicità dei fascisti, dice indicando la pagina del giornale dove si parlava di quel recentemente. Certo che se ammuccia sul giornale, Felica, se te lo trovano ti puoi anche arrestare, dice Angelo scherzoso ma realista. Effettivamente gli apparati del governo fascista stanno provando a occultare o a far passare sotto gamba la notizia del suicidio di Roussel, che potrebbe macchiare l'alone di armonia e felicità che il regime vuole rappresentare e ovviamente imporre. Ma suo signor Roussel è francese, manco fosse italiano, obietta Filippo. Non importa, al Truce Benito disturba il fatto che uno straniero si sia suicidato nel suolo italico, che di per sé, in quanto fascistizzato, dovrebbe emanare e garantire felicità e spensieratezza, dice Angelo. E qualcuno ride a queste parole, ma è un ridere amaro. A proposito, interviene lo zio Francesco, l'altro giorno il nostro caro Possetto ha detto ad alcuni camerati che non è bello farsi vedere neanche in fotografie scattate in case private con in mano il mandolino o la chitarra a cantare insieme ad amici e cugini, perché il fascismo è per uomini forti che usano libretto e moschetto e non per anime deboli che si abbandonano alla musica e alle melodie della chitarra e del mandolino. Angelo, tornato a casa, ripensa a quei discorsi e inizia a scrivere un articolo per una rivista che stampano clandestinamente amici anarchici di Caltanissetta. Si firmerà Antonio Doacre per sfuggire ai controlli. L'articolo esce dopo qualche settimana sulla rivista Il Refrattario. Grazie, ora mi metto la giacca. Siamo concludendo. Ah, già. Sì. No, è quasi finito praticamente. Questa lettera è lunga, molto interessante, in cui c'è sviluppato un discorso che non so se poi ci avete fatto caso. Il libro ha una parte finale, l'appendice si dice, in cui c'è un taccuino di appunti dell'autore. in cui ci sono diversi approfondimenti, uno tra i quali è quello che riguarda Pasolini e il discorso sul mutamento antropologico degli anni 60 in Italia e altrove. Quando dice a un certo punto questo sistema consumista di nuovo di sviluppo negli anni 60 in poi è più violento del fascismo, perché dici durante il regime i giovani che indossavano la divisa facevano le parate, facevano le marce, quello che è, poi toglievano la divisa e tornavano a quello che erano. Il consumismo, dice il sistema consumista, questo toglie l'anima ai giovani e li cambia radicalmente da dentro. Un esempio è questo: quando dice il fascismo non voleva che si fotografassero soldati col mandolino in mano, ma anche in generale abbandonarsi alle debolezze della musica, è una cosa che se voi ci pensate oggi è ancora più tristemente, perché 70 anni fa magari durante il fascismo la gente cantava, ma oggi se ci fate caso non si canta più. Ivanilli ci diceva gli operai 50 anni fa lavoravano anche duramente, anche i minatori, e cantavano. Oggi ci sono impiegati dentro l'ufficio, casa scontano un CD della musica, perché c'è anche una cosa di una specie di vergogna. Poi questa lettera è un po' lunga, articolo di Antonio De Acre pubblicato sulla rivista Refrattario agosto 33, e dice la riassumo: non è tanto il fascismo che ci fa paura, ma ancor più ci fa tremare, un po' tremare, quello che sta dietro e dentro la macchina fascista. Quello che riguarda la tendenza a schiacciare non solo l'individuo che esprime il suo pensiero, ma soprattutto la tendenza a oscurare la possibilità di esprimere una forma di scontentezza rispetto all'esistente, quello che si diceva prima. Purtroppo è semplice dire non sono contento, poi figuriamoci se si può dire di stare male, di sentirsi talmente oppressi da pensare alla vita, alla via del suicidio come fuoriuscita da un presente opprimente. No. A un certo punto dice: non è solo questo il punto, è anche un altro, cioè la tendenza dei fascisti a imporre anche un atteggiamento di forza e di viralità, che addirittura vuole evitare di far vedere gli italiani, soprattutto se impegnati in gesti militari nel campo di battaglia, che cantano e suonano con chitarra e mandolino. Perché anche questo è un comportamento poco consono al vero fascista. Questa è una lettera che scrive Angelo Di Gregorio sotto il nome di Antonio Doarte. A un certo punto fa una cosa molto interessante, che dice: l'industrialismo è alla radice del fascismo, che distrugge ed elimina la debolezza. È il capitalismo che va di pari passo con l'industrialismo. Anche il linguaggio, l'industrialismo è una cosa che si usa poco oggi, allora molto di più. Degli ultimi due secoli, le automobili, le fabbriche che devono produrre velocemente senza considerare se la forza lavoro è oppressa, sfruttata. Anzi, più la forza lavoro è oppressa, più l'industria procede nel suo cammino, che elimina la debolezza dell'uomo e quindi l'uomo stesso. E poi fa una cosa sugli artigiani. Storicamente dice nel 1826, a livello di coscienza che c'era, l'Anton Billesby, stampatore di Filadelfia, sosteneva che il lavoro salariato rappresenta l'unica essenza della schiavitù, perché ogni miglioramento nelle arti tendente a ridurre il valore del lavoro necessario a produrle ha inevitabilmente l'effetto di aumentare il valore e il potere della ricchezza già in mano a coloro che ne sono fortunatamente in possesso. Poi cita i setaioli di Lione, che nel 1831 oppressi e sempre più eliminati dall'industrialismo, si organizzano per resistere alla proletarizzazione e si trovano di conseguenza a lottare sulle barricate. Poi Aristide Bruand, ispirandosi a loro, scrisse l'inno dei setaioli, Le Chant des Canuts. E poi, c'è questo discorso che sviluppa. Ora, la cosa più interessante che a me è successa, fortunatamente, tutto questo studio di ricerca, anni, ovviamente sfattagliato, no? 15 anni ogni giorno, è la scoperta che poi anche lì torna alla libreria Mondadori vicino a casa mia, dove sempre a febbraio-marzo ho trovato un libro, anche lì non me l'aspettavo, alla Mondadori in quanto tale, per dire che dipende molto da chi gestisce e Federica e Antonio. Il libro si chiama Placido Rizzotto, dai fasci dei lavoratori agli omicidi dei socialisti degli anni 40. Dei sindacalisti dei 40. Può essere che qua si potrebbe trovare, non so se ci sarà. È edizione Navarra e sono due storici di Palermo. Non mi ricordo il Poddo. Ah? Il Poddo. Fondo, no, era un lonigro. Era già. Beh, poi. Ma la cosa particolare, ve lo giuro, sto libro l'ho trovato sullo scaffale, l'ho sfogliato e era un reverse stampato. Era difettoso. Cioè a un certo punto andavo avanti e le pagine, dopo 30 pagine, erano capovolte. Errore di stampa perché non l'ho fatto vedere alla libraia. Cioè, meno male che ce l'hai detto. Te lo regalamo se eravamo in Sicilia o alla Calusca. I perugini sono persone con eleganza, con la generosità, ma con la tirchieria antropologica. Quindi, metà prezzo. E io ho comprato questi due perché è veramente fondamentale. Non ce l'ho qua, ogni tanto me lo porto dietro per presentazione, ma questa è stata veramente la presentazione dell'ultimo momento. Per miracolo, sono passato sabato con Roberto, me l'ha proposto, perché in questo periodo c'è tutto così sballato, incertezza e volontà, a volontà, incertezza a volontà. E a un certo punto in questo libro c'è quello che poi è una cosa dolorosa ma anche liberatoria per noi della... Vabbè, praticamente il movimento contadino che si è sviluppato in Sicilia dai fasci dei lavoratori fino all'Ottocento, in quel libro viene descritto puntualmente. E la cosa strana è che Corleone, non so se voi ci avete mai pensato, Dio santo, è stata praticamente criminalizzata in quanto tale. Non so se il padrino si chiama Vito Corleone, il cazzo di boss, di un minchia di Mario Puzo, ha messo il nome di una città. Cioè, come stigmatizzarci? Quando io dico Corleone, voi cosa pensate? Parliamone chiaro, vai. Corleone. Riccardo Corleone di Leone sarebbe bello, ma purtroppo... Don Vito. Oppure? Il grande. Il grande. Il boss, il re dei boss. Sì, come fosse Bernardo Provenzano. No, Brusco. Lina. Rina. Non so, Provenzano è pure di Corleone, non lo so. Penso di sì. Più soprattutto Rina. Ora vi giuro, Corleone è la città dove nel 1893 ci fu il primo convegno dei fasci dei lavoratori siciliani e prima che nascesse il Partito Socialista, tra l'altro a Palermo nacque, non mi ricordo, c'è scritto tutto in quel libro, l'opera lì dei sociale, dei lavoratori. Quindi cosa è successo? Io poi ho fatto una tesi di laurea sugli emigrati italiani in Belgio negli anni 50, 60, 80... Robertino lo sa, che ho pubblicato anche un libro su dei ritorni, che quando io sono andato in Belgio a studiare, a fare la tesi laurea, a un certo punto vedevo tutti i siciliani, non erano italiani in generale o siciliani in generale, io ero a Monza nell'area delle miniere, Charleroi, eccetera, erano di Agrigento, vedi come attira, Caltanissetta e Enna. Praticamente le province dove paradossalmente dopo 100 anni ci sono i provinci più mafiosi. In realtà, non dico che è il contrario, però da Corleone, nel centro Sicilia, tutto il movimento contadino più forte, più resistente, più battagliero, si è sviluppato lì. Dici, perché allora poi hanno detto di Corleone? Per una specie di guerra mediatica, oltre che militare, politica, perché... libro, poi ci sono diversi passaggi più dettagliati in questo romanzo. Tutto il movimento contadino che si è sviluppato in quel periodo fino agli anni 40-50 è stato eliminato, ma o meglio, nel nostro immaginario più è stato eliminato, infatti Corleone, minchia, Rina, cose, cazzo ricordo, i facili lavoratori, le affittanze collettive. Nel 1906 c'erano 106 cooperative di affittanze collettive in Sicilia, tutte sviluppate nel centro Sicilia. Dici, che vuol dire? Vuol dire che tutti i delinquenti, i mafiosi, quelli che detenevano i feudatari, avevano una paura enorme della cooperazione, infatti ammazzavano Bernardino Verro, che era il presidente della cooperativa di affittanza collettiva, Pane Pinto pure. E poi la cooperazione è stata annacquata nei 100 anni, ai tempi aveva un senso veramente potentissimo, perché toglieva il potere ai gabellotti, ai mafiosi, ai baroni, eccetera. E a un certo punto che hanno fatto? Non ce la facevano, ve lo giuro, è commovente questa cosa. Manco con le scopettate, perché veramente continuavano a lottare i contadini, gli usurpatari, vabbè, i braccianti, aiutati dai socialisti, dai cattolici, poi c'è Don Sturzo come figura importante in questo libro. Non ce l'hanno fatta e le hanno dovuti, questo è abbastanza rimossa, le hanno dovuti cacciare sotto la peste dell'emigrazione. Quando sono arrivato in Belgio, mi ricordo, a parte che la gente che incontravo, a parte che ricordavo in Setta, Enna, tutta la mia provincia, la provincia dove venivo, ed erano quasi tutti comunque di area, più o meno, socialista, comunistoide. Poi Anne Morelli, che insegna all'ULB di Bruxelles, lo disse chiaramente al convegno per il 50° anniversario del patto italo-belga nel 96, io ero lì nel 96, il patto italo-belga che aveva stabilito che partivano dall'Italia 50.000 in 10 anni minatori, per... e disse, e questa è stata una deportazione economica, perché sono stati cacciati quasi tutti contadini, surfatari, che avevano un tessuto sociale, politico forte, di resistenza popolare, che a manco le scopettate riuscivano a fermarli, e quindi erano dovuti falcidiare così. Questo, vabbè, nella parte finale del libro c'è sviluppato pure, e vi ringrazio. Tutta una cosa, sì. Noto che è un tema che tu hai trattato ampiamente in, in altri tuoi lavori, sì. E poi quello sulla base del quale ci si è conosciuti in valle, il tema della velocità, della lentezza, eccetera, tu in questo libro lo radichi nell'esperienza politica della, della gente del popolo siciliano. Conosco questa, questa cosa, fa piacere, è importante, ha un significato anche per te di proprio radicamento in una storia, quindi non, no. Soltanto, non soltanto tu che poni questa questione a partire dalle contraddizioni del, dell'oggi e quindi viaggi in lungo e in largo l'Italia sui treni e poi vai in valle, ma riscopri una, la traccia storica. Io notavo, grazie. No, però quello che dice lui è interessante, perché come ho fatto io a costruire questa cosa? Perché mi ha colpito, poi lo scrivo nel, nell'ultima parte, appunti, che un signore, che mio compaesano, che aveva conosciuto mio padre, mio nonno, mi disse una cosa che mi sconvolse, mi disse tuo nonno mi diceva 70 anni fa, le macchine e la televisione rovineranno il mondo. Le paesi, le strade, eccetera. Allora da lì io ho capito che c'era una traccia di critica al progresso da parte di questa gente, che magari uno immagina, ma le vicchi erano arretrati, erano gente incolta, gente... Invece, tra l'altro, nel libro, quello di Rizzotto, ho scoperto che la coscienza e lo studio che facevano, cioè negli anni 10, 20 e 30, aiutati dai socialisti e dai cattolici, era fortissima. Infatti anche la cosa di l'istruzione che fu potenziata fu vista come una minaccia dai, dai baroni, mentre i cattolici e i socialisti fomentavano la formazione politica, l'istruzione. Ma al di là di questo probabilmente c'era anche una coscienza innata di... Io non so, mi ricordo mia nonna fino a quando morì 20 anni fa, mio padre ci montò i termosifoni e cose, e che usavano ancora lo scarpatore, non sono lo scaldino. Sono piccole cose, beh, quelle molto più, però forse c'è un tessuto che abbiamo perduto, perché diceva anche dei vicchi arretrati, invece c'è da... No, a proposito di Val di Susa, ha provocato Roberto, fai bene, perché nell'occasione del 3 luglio 2021, che è ora, cioè il 10° anniversario 2011, ho ripubblicato questo libello che qui avevo già portato, era piccolino bianco, se non ricordo, Roberto, e adesso dopo 10 anni ho voluto ripubblicarlo, però con ovviamente una integrazione attualizzante di una mia amica Donatella, quella che mi ha conosciuto a Bussoleno, che finalmente anche lei anche qui c'è una cosa interessante da dire, che lei pur da 20 anni in Val di Susa abita e milita nel movimento per diversi motivi, questo è un peccato, non è mai riuscita a raccontare la sua esperienza, che vuol dire che non la riesce a condividere, è un peccato, che lei avrebbe da raccontare infinità, eppure è un po' per diversi motivi, ora caso di approfondire, però io ho detto e ce l'ha fatta, vi giuro che non è facile, ha scritto 2 pagine della sua esperienza negli ultimi 10-15 anni in Val Susa, Donatella racconta, e c'ha del terapeutico tutto ciò, e poi altre cose, e poi il DVD col monologo teatrale che io non so se l'avevo fatto qua, però avevo scritto un monologo sul 3 luglio in Val di Susa del 2011 durante l'assalto nel bosco di 60.000 persone per riconquistare il cantiere, la baita, e ho fatto decine di date e poi ho messo il DVD per la prima volta in allegato. E... bene, poi Claudio mi ha provocato perché ha detto che nel frattempo che è uscito questo, nel frattempo che stavo stampando, ho scritto questo. In realtà qualcuno mi chiede come fai a scrivere così tanti libri. Quello da 15 anni andava avanti e quindi è stato ultimato, è stato scritto in pochi mesi. Questo durante l'anno che è passato, come sempre da diversi anni, qualcuno lo sa, collaboro con la Bottega del Barbieri, un blog di giornalismo sociale di inchiesta, quindi ogni lunedì ci metto delle cose. Ovviamente questo libro che è uscito a marzo di quest'anno non l'ho scritto nel giro di 3 mesi, neanche di 2 mesi, ma molte cose no. Messe lì, riportate, alcune ovviamente, e poi c'è il CD più prezioso perché è l'ultimo, che si chiama A piedi e in canto, 13 brani inediti che ho scritto durante il ottobre-novembre dell'anno scorso. Una si chiama Levate la mascherina, in siciliano, ha fatto ballare anche persone con la mascherina a febbraio in teatro lì all'aperto a Perugia. E poi Il virus dentro, poi Se canti non muori, La ballata degli invisibili, queste canzoni un po' leggermente in questo periodo anche no. Ed è inchiesta molto più approfondita con interviste, anche a Sara Gandini che è di loro dell'Italia. Non so, io sono contento di dirvi che questa è la prima presentazione a Milano e forse anche in generale perché questi diversi blocchi siamo fermati, a parte qualcosa clandestina lì sulla cosa di meno. Però, tra l'altro il CD c'è scritto qua, non è stato per registrarlo, dovevamo andare, ricordate che a febbraio a Perugia è stata la zona rossa, mentre tutta l'Italia era bianco-gialla, Perugia e provincia rossa. Quindi per registrare nella sala di registrazione, quello si spaventava, come facciamo, è la multa, è mia mamma secondaggio, ma siamo in 2, che cazzo siamo in 3? Niente, l'abbiamo fatta a casa, meglio così. Hanno risparmiato, però di qualità perché è un musicista bravo, per la prima volta io ho un CD con un musicista che ha messo 5 strumenti oltre la chitarra, paradossalmente sembra fatto in casa, non è più elaborato degli altri. Grazie. Bene. Se comprate 2 libri, lei ha comprato 3 libri, 2 in Val di Susa sono qua, vi faccio gli sconti.